Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascar, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma perché farsi un Calvin Klein quando puoi farti di zanzara? Sabato mattina si mette in moto la macchina, tac, si prende l'autostrada, tac, si prende la 1, tac, si esce a Tarvisio, tac, procedi per l'Austria, tac, posteggi al welcome, tac, paghi, tac, prendi una signorina. Tac! Cruciani in treno da Danzica a Varsavia, prima classe, tutto pagato con le tue tasse, tra l'altro. Ci portano il menù per la cena e quello accanto a me, un americano, chiede: ma c'è niente di vegano? La tipa lo guarda e gli fa: no, siamo in Polonia. Beh, siamo al top. Tutti in Polonia, Cruciani, tutti in Polonia. Allora, caro Parenzo, oggi pomeriggio era una trasmissione della televisione dove lavori anche tu, che si chiama Visto La 7. Io ero dal dentista invece, infatti ho un po' di anestesia, chiedo scusa ai radioascoltatori. Beh, insomma, un giorno c'è una cosa, un giorno anestesia dal dentista, un altro sei a fare in culo non so dove e partiamo bene, insomma, come al solito, no? Però comunque... Niente questo. No, ma un giorno sei non so dove, alla cresima, sì. Matrimonio, hai un altro giorno c'è l'anestesia dal dentista. Laurea, quello alla laurea. Una volta. Ma ho capito, ma al dentista, ma c'è un giorno che sei normale dal grandissimo dottore. Ma c'è, un giorno, che sei normale, che viene alla radio normale per produrre ieri, o no? L'altro ieri ho detto che ho solo un po' di anestesia al dente . E quindi parlo leggermente come parlerebbe Mario Capanna, perché ho la bocca tutta girata. A tal proposito, sì, vengo dimmi. A conoscenza di un documento riservato che il board della Confindustria riterrebbe questa trasmissione, a buon diritto, una trasmissione da chiudere, tecnicamente sì. Da chiudere. Sì, Capanna, ottimo. Che c'entra adesso questa ottimamente cosa? Non mi hanno voluto a governare questo covo di cosiddetti imprenditori. Trovo però questa risoluzione perfetta. Appello ai perfetta, due candidati presidenti: chiudere illico atque immediato, come diciamo noi latinisti, questa latrina, e sostituire la trasmissione con un bollettino sul sindacato, sul ruolo dei lavoratori, sulle tecniche per occupare le fabbriche, in particolare quelle agricole. Ma insomma, pareri non richiesti da parte del signor Capanna. Da parte del signor Che Capanna. È successo? Ma niente, Capanna che parlava così. Ah. Allora, ti dicevo che ero ospite in una trasmissione della 7, ottimo, dove c'era la signora Martani. Molto bene. La solita Martani, ex hostess dell'Italia. Tra le cose che adesso non ripeto, perché la solita discussione sugli agnelli, la strage degli agnelli. Chi? Agnelli della Fiat? Quelli pasquali, no? Gli agnelli, i padroni. So, la strage degli agnelli pasquali. Io parlo soltanto dei padroni. Le stragi le fanno i padroni, ricordati. No, ma in questo caso gli agnelli pasquali. No, gli agnelli pasquali. Di cui ce ne fottiamo totalmente. Mi pare molto più grave quello che hanno fatto nella storia di questo paese i signori agnelli. No, ma quello non già c'entra. Già si adesso. Chiamano agnelli, sono dei lupi in realtà, che hanno mangiato coi soldi degli italiani. Una cosa terribile, guardate, da ma occupare immediatamente. La Fiat va occupata, bravissimo. Finalmente c'entra. Ti occupi di cose molto serie, ottimo. E ne avete parlato anche a quel tagada lì, che non so che ma cosa. No, però... Allora, la circostanza è stata, scuoiare gli agnelli, perfetto, bravissimo. No. È esattamente quello che volevo fare. Ma erano gli io. Agnelli pasquali, non gli agnelli proprietari quali, della cosa Fiat. Cosa c'entra gli agnelli pasquali adesso? Ma con perché i lavoratori c'è cosa c'entra? Non c'entra nulla. In realtà... Depistate sempre, siete degli oclocrati voi altri. Il problema è molto semplice. Ci rompono i coglioni sugli agnelli pasquali, ma noi ce ne fottiamo. Però, al di là di questa discussione, la sempre la stessa, ci danno degli assassini perché continuano a mangiare gli agnelli, la solita noia mortale, diciamo... La signora Martani, ex hostess salita della serie, è uscita con una cosa che ti farà andare in bestia. Ha detto, parlando degli nemmeno Cristo voleva l'uccisione degli agnelli, tutto un discorso della religione, ha detto no, perché in realtà gli ebrei sono stati gli ebrei hanno ucciso Gesù Cristo. Senti, no, ti giuro che il classico argomento. Senti, senti. Tu cosa hai detto? Senti, senti, no, era Rondolino che si è scatenato. Hai difeso la causa? No, aspetta, aspetta. Tu non è stato in silenzio, coniglio, no, codardo, no, maledetto. No, no, no. In silenzio, stato, aspetta, codardo, aspetta, coniglio. Aspetta, aspetta. Per me è un orrore, cioè una strage in nome di che cosa? Allora, non, Dio, Cristo non ha mai detto di uccidere gli agnelli per il periodo pasquale. Se vogliamo riferirci alla religione, l'agnello di Dio è Cristo, che infatti è stato ucciso dai suoi stessi, dagli stessi ebrei, insomma. Cristo ucciso dagli ebrei. Beh, amico mio, medita un attimo. Vorrei una parolina sulla Martani da parte tua. Una parolina, una che parolina. Dio la perdoni. Che Dio la che perdoni. Dio la perdoni. Perdonali, padre, non sanno quel che fanno. Che Dio la perdoni. Che Dio la perdoni. Allora, quello che è successo ieri allo Juventus Stadium con gli errori arbitrali o presunti tali a favore della Juventus, molto grave. Beh, molto grave. Che cazzo ne sai tu? Molto grave. Lo so perché ho seguito, perché ai danni del Torino. Alle sorti del Torino. Bravo, esatto. No, riabilitano in parte a livello di discussioni mediatiche quello che, arbitro Rizzoli, quello che disse Paolo Liguori, fu in realtà anche querelato dagli arbitri, no? E disse che Rizzoli non doveva arbitrare allo Juventus Stadio. Esatto. Dichiarazione di oltre un mese fa. Giusto. Per cui Paolone fu crocifisso. No, aveva torto prima. No, e no. Adesso sta zitto perché c'è il bavaglio. Comunque, secondo una ricostruzione, dice: cazzo, Liguori c'aveva ragione perché aveva detto Rizzoli bravo, non può arbitrare allo Juventus Stadium la Juventus. Rizzoli è l'arbitro più affidabile del mondo, ma non è il più affidabile allo Juventus Stadium quando ma perché? Dai, Paolo, perché? Fai arbitrare Gesù, fai arbitrare Maometto allora. Statistica. Orsato sarebbe stato più affidabile, secondo me, e sarebbe stato più affidabile, lo sa bene Graziano, anche D'Amato. Poi in realtà fu sostituito, fu sostituito per un infortunio, per un infortunio. Disse Liguori, ci sarà un errore a favore della Juventus, il che si è verificato però un mese e mezzo dopo. Il Napoli gioca meglio della Juventus, è più forte della Juventus, è in testa alla classifica, c'ha due punti di distacco, è sicuro, matematico, voglio farci la mia scommessa che ci sarà un errore arbitrale allo stadio. No, Paolo, no, Paolo, direttore, allora, dai. Dite che sono un visionario, dillo. In realtà ieri non si giocava allo Juventus Stadium, come sapete si giocava nello stadio del Torino, dunque è vero solo in parte il ragionamento, perché sempre a Torino comunque eravamo. Appunto. Per me puttanate sono, puttanate erano. Beh, e puttanate no, rimangono, no. No, puttanate, questa sudditanza di Rizzoli nei confronti della Juventus è una cazzata pazzesca, puttanate erano, detto con tutto il rispetto, e puttanate rimangono adesso. Sono errori, punto e basta. Queste cose per cui c'è la sudditanza di Rizzoli nei confronti della Juventus, le bandierine alzate solamente quando vedono la maglia bianconera. Puttanate, puttanate. Vabbè ragazzi, a complicare le cose a Roma però, dove già c'è un bordello incredibile, ci si è messo pure Antonio Razzi. Antonio, ma che cosa cazzo ti candidi a fare, amico mio sindaco, amico Antonio? Amici cari, buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori. Che sta, che ma fa? Innanzitutto saluto a voi due. Lo so, salutaci a noi due. La ma... coppia vincente. Senti, amico mio, però sei in viva voce, che cazzo sei, in viva voce? Perché sono qui in ufficio, lo devo levare. Ma certo che devi levare il viva voce, certo che mannaggia, perché dopo devo sempre tenere questa cornetta dentro l'orecchio, anche adesso sono nella cornetta attaccata, si sente bene? Come sei sì, nella più cornetta? O meno nella cornetta attaccata, però, che vuol dire che sei attaccato alla cornetta? Io ce l'ho vicino all'orecchio, mi dà fastidio. Beh, ho capito. Cosa vuol dire mio? Che è nella cornetta? Cioè no, è entrato è nel è telefono? È attaccato nella cornetta. Non il cornetto di gelato. No, no, nella cornetta attaccato. Ma io non ho capito una cosa, caro Antonio, innanzitutto la Juventus ha rubato oppure no? Tu che sei super juventino. Guarda, io non ho detto niente è stato rubato la Juventus nella la Champions League sia a Torino che a Monaco di Baviera. Vabbè, questo e che nessuno c'entra. Dice niente. Adesso... No, l'arbitro è pure un essere umano, può pure sbagliare qualche volta. E allora non è che sbaglia sempre a favore della Juventus, sbaglia anche contro anche a favore di tante altre squadre. Allora... Può capitare, perché l'arbitro è uno solo, però con la Moviola in campo, che adesso il nuovo presidente della FIFA... Sì, vediamo. Allora... Gianni Infantino. Che vabbè, allora, ma che c'entra questo adesso? Allora si può anche discutere con la Viola, allora si può pure discutere. Vabbè, ma torniamo a cosa. La partita non l'ho vista. Non l'hai vista. Non l'hai vista. Dico che non ho avuto tempo. Senti, ma io non ho capito una cosa, Antò, ma alla fine che ti candidi a fare a Roma? Non ho capito. Già c'è tutto un bordello, ci sarà a centrodestra c'ha 45 candidati, te ci metti pure tutti, ci metti. Guarda, mi ha dato fastidio delle persone che in primis avevano detto no, io non voglio candidarmi, io non c'ho ma tempo. Chi? La Meloni? E poi dice, ma no, ma io sono incinta, tutto un ripensamento. Ma questo a me mi fa capire che queste persone vogliono remare contro il mio presidente, Silvio Berlusconi. Ma il presidente candida Bertolaso, appunto. Il tuo presidente, dunque tu disubbidisci a Bertolaso presidente pure, o no? No, io ne devo, non assolutamente. Ma io come no, quello candida Bertolaso, te candidi pure tu, ma che bordello è? No, io mi sono candidato, ma sono ancora in corso perché devo parlare col presidente. Ma ho capito, amico, allora che te sei candidato? Ma come? Le cose che ho intenzione. Perché ma non è che uno si sveglia la mattina così? Alcuni colleghi, te lo dico da amico. Ma che fanno alcuni colleghi? Alcuni colleghi pensano che io non sono all'altezza di niente. Ma che ti candidi così, per sfizio, allora? Ma questa era, come dico, una magna di sale, fino a che fanno tutte quelle facce io, amico caro. Cioè, tu dici, l'unico che ha lavorato in Parlamento sono io, l'unico che... Io ho lavorato, hai fatiato 41 anni in Svizzera che hai timbrato la cartella, se no non mi pagano. Ho capito, ma tu dici che la Meloni non ha lavorato. Questo non ha nessuno, questo non hanno lavorato nessuno. Ma nessuno... Mi devono dire a me quante ore di lavoro hanno fatto sotto un padrone. Per cui la Meloni non ha fatto un cazzo, dice la Matteo. Tutte hanno vissuto sempre con la politica, la parlantina. Lo so che ce l'hanno la parlantina meglio di me, lo so che c'hanno le carte meglio di me, ma che dica la coach? Ho capito. E invece Bertolaso, tu lo sai che è la testa. Ho capito, la testa. Fermo, l'abruzzese. Fermo lì un attimo, fermo che torniamo, fermo. Quando sento il traffico divento pazzo. La Zanzara. Ragazzi, intanto vi do solo due notizie prima di proseguire con Razzi. Una è questa, perché due notizie così vi scaldo un po' e diventate pazzi con me. La vedova di quello che è stato ucciso da Stacchio, del rapinatore ucciso da Stacchio, in provincia di Vicenza, ha occupato insieme a cinque figli, non mi ricordo, una casa comunale in un piccolo paese. Si è piazzata lì, non se ne va, si è registrata dai carabinieri e non se ne vuole andare. È entrata dalla finestra, occupata. Romena, Roma, ambulante, quello che è, occupata la casa. Italiana. L'altra cosa, Villa Literno, in provincia di Caserta, un tizio gli stavano rubando, stavano entrando dentro casa, erano vicino alla sua macchina, ha sparato col fucile, ha ammazzato un ladro. Ora chissà che gli succederà. Intanto riprendiamo con Antonio Razzi, che è abruzzese, se candida a Roma. Scusa, ma tu che c'entri con Roma come sindaco? Antò, diciamo la verità. Senti, siccome mi hanno invogliato alcuni paesani con regionale, perché ci sono qui oltre 450.000 abruzzesi e voterebbero che richiedono tutti, a Roma. Voterebbero tutti per te questi qua? Beh, io non penso tutti, no. Sarebbe troppa grazia Sant'Antonio. Appunto. Magari. Ma scusa, allora diciamo la verità. Tu vuoi trasformare Roma come Pyongyang? Bella questa cosa. Trasformare Roma come Pyongyang. Bellissimo. No, io lo voglio trasformare come Lucerna, la mia città in Svizzera. Ma pure Pyongyang. Pyongyang non è male, tutta pulita, o no? Ma Pyongyang è anche bello tutta pulita. Appunto. Allora, diciamo così. Voglio trasformare Roma come la capitale della Corea del Nord. Ma sì, ma è una cosa bella, pulita, corretta, traffico scorretto. scorrevole. Senza una carta per terra, senza una carta per terra. Senza una carta per terra, ma nemmeno le cicche di sigarette. Perché multe severissime, multe. Milioni di cicche di sigarette. Multe ma... severissime per chi butta le cicche per terra. Ma che attraversa così in mezzo alla strada, così senza passaggio pedonale. Poi vabbè, le solite cose. Ma che ci stanno, perché non si vede nemmeno. Poi le solite cose, la lista, le case chiuse, beh, tu sei a favore delle case chiuse. Ma quello sicuro. Ma perché non mettiamo la lista, una bella lista con nella lista elettorale che farai, che ne so, 4-5 prostitute, bellissimo. Come no? questo non credo. Ma allora scusa, ma che credo. E assessori, chi faresti assessori? A mettere 4-5 prostitute nella lista, bellissimo. Non credo. Come assessore chi non sceglierei? Non è che stiamo facendo la cosa, di come che? Potrei dire. Di che? Un gioco, qui facciamo le cose serie. Sì, però ho capito. Io assessore. Esperti. E di che? Esperti in tutti. Assessore, chi faresti assessore? Io per esempio, a Sgarbi, subito lo metterei assessore alla cultura. Oh, questa il bene. Migliore al mondo. Sgarbi assessore alla cultura, bellissimo, questa è già una cosa. No, Sgarbi assessore alla cultura. Vittorio Sgarbi. E Crozza? Crozza tranquillamente lo potrei mettere alla comunicazione, visto che lui è Crozza alla comunicazione. Ma non credo che sarebbe non credo che accetti. Visto che lui è un esperto di televisione, ma chi siete alla TV con il comune? Responsabile degli eventi e televisione. Amico mio, siccome tu parli in tedesco, facciamo un appello ai turisti tedeschi in tedesco. Corrazzi sindaco, questo è il titolo. Corrazzi sindaco, tornate a Roma, sarà più pulita. Vai. Ja, ich offen, wenn die alle Schweiz, wenn ich bin Bürgermeister in Roma, sind viele Schweizer Kollegen dort bei mir besuchen. Ma a dire che io ho detto. Ma il nome Razzi non l'ho sentito. Corrazzi sindaco, bisogna dire. Corrazzi sindaco. Mit Razzi Bürgermeister, sarebbe a dire sindaco. Sì. Kommen alle dort in Roma. Tornate a Roma con Razzi sindaco. Tutti qui a Roma. Assolutamente. Mi sembra una cosa anche bella. Scusa, ma quello. I romanisti dicono sempre che la Juve sono dei ladri che rubano tutte le partite. Tu sei che vuoi dire ai romanisti tu? Ma guarda, io vado, tu lo almeno credo che te l'avevo detto e l'avevo detto pure all'amico Lorenzo. Io vado a vedere sia le partite della Lazio e sia le partite della Roma. Adesso non fate quando è frasettimanale, perché io frasettimanale non ci sono e non vado neanche a vedere la Juventus, la mia squadra. Però il martedì, il mercoledì, quando ci sono le coppe, io vado. Non ci stanno più le coppe adesso. Allora Antonio, facciamo questa cosa qua. Facciamo un test per vedere quanto ti intendi di Roma, amico mio. Allora, Roma da chi fu fondata? Non da me. Questo lo sappiamo. Da chi fu fondata? Da chi? Non lo sai. Ma uno dei due, però uno è morto, Roma, diciamo. Roma. Ma sì, ma io aspetta, tanto sei fermo lì. Ma la storia, io la scuola non la faccio più. Appunto, non l'hai fatta. I re di imbarata. Quanti erano i re di Roma? Quanti erano i re di Roma? Sette, caro. Dimmene due. Otto. Dimmene due. Sarò l'ottavo re di Roma. Però l'impero più grande, te lo posso dire da me, è stato Costantino. Dimmi una cosa. Aspetta, Antonio. Giulio Cesare, io ti posso dire un'altra battuta. Giulio Cesare ha messo i San Pietrini. Non c'è mai cascato, perché qualcuno ha detto che si scivola ai San Pietrini, qualcuno che ci fa campagna elettorale, non dico chi. Non ho capito niente. Non è manco io. Che cos'è la Rapacis? È là. È qua, lungo il Tevere. Ma che cos'è? Che cos'è? Beh, è un monumento. Ma questo non c'è dubbio. Cosa rappresenta? Ma non dite mai di me. Cosa rappresenta? Rappresenta un simbolo. Non sei un cazzo. La Fontana di Trevi, chi l'ha fatta? La Fontana di Trevi. Non l'ho potuto fare io perché non ci stava allora. Ma dimmene una, chi costruì la piramide? Io non vivevo in Egitto e non l'ho portato qui. E dunque chi l'ha costruito? Gli egiziani? Gli egiziani a Roma? Quando sono venuti gli egiziani a Roma? La nuvola? Cos'è la nuvola? La nuvola? Nuvola bianca o nuvola rossa? La nuvola! Quella di Fuxas! La nuvola! La Roma, quanti scudetti ha vinto? La nuvola di Fuxas si è pronta fra un anno. Sì, basta cavolo, è quello che ti ha suggerito dietro. Quanti scudetti ha vinto la Roma? guarda, non ti posso neanche dire quelle della Juventus perché non sei un cazzo. Ma una io voglio fregate che, due. Io voglio che tu, come verranno fregati due. Circo Massimo, cos'è il Circo Massimo? Il Circo Massimo sta là. Sta là, ma cos'è? Cos'è? Da dove spara il cannone del mezzogiorno? Sparava, non so, da dove? Su. Su dove? Ci hanno fatto pure il film di Ben-Hur lì sulla Ben-Hur, ci hanno fatto il film, se no dove lo giravano? Il monumento, scusa. Il monumento che viene chiamato macchina da scrivere, che cos'è? Ma il monumento macchina da scrivere. Vabbè, se non ti fa suggerire. Così i romani quello... lo chiamano. No, no, che mi suggerisci? Sono in ufficio, sono io. Sì, sta minchia. Che minchia ci sta, non ci sta nessuno. E allora? Che cos'è? Sono io le sedie. Allora, però, questa è quella finale, quella su cui cadono tutti. No, quelle, quale auto? Quello del cannone. Quale cannone sul piccio? Sì, dai, il piccio, no, è l'altro, Gianicolo. Quale auto? Ma che frega? Fermo! Oggi per Roma. Fermo, quale autobus porta da Termini a San Pietro? Qual è l'autobus? Ma io prendo sempre il 492 della Tiburtina che mi porta qua, perché io vengo col bus da Pescara. Ciao Anto, ciao, non sei un cazzo, vai, ciao. E prendo solo quello. Crociani, la mia ragazza ti odia. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Più Raul, meno Parenzo. Più Raul, meno Parenzo. Traffico. La Zanzara. Per fa la vita meno amara, ascolto sempre la Zanzara. Cruciani, devi iniziare a provare a vivere senza mettere le mutande e non tornerai più indietro. Qualcuno sostiene che è meglio dormire senza mutande, ma addirittura senza mutande definitivamente no. Cioè, Parenzo, questo non si può dormire fare. Dormire senza mutande, sì, certo, lo dicevano anche i pediatri, anche il mio lo diceva. Ma non credo che si possa stare proprio senza mutande proprio, eh. Tutto cioè, il giorno, tutto dici? Il giorno così, diciamo, i jeans senza mutande. Cioè, Ritengo questo argomento sconveniente rispetto a quello che è il mandato editoriale di questa trasmissione, che sarebbe quello di parlare di operai, di lavoratori, di occupazione delle fabbriche, non di parlare di mutande, grazie. Sei veramente un coglione. Allora, intanto Paolo Liguori è romanista. No, aspetta, e il direttore del TG4 Mario Giordano si sono imbavagliati. Credo durante i loro rispettivi telegiornali o a TGCom 24 per mostrare tutto il loro sdegno per quello che è accaduto ieri al derby di Torino, terminato 4-1 a favore della Juventus, come abbiamo sentito, con tutte le polemiche, no, eccetera eccetera. Ora va bene tutto, per carità, io sono a favore dello spettacolo ed è... però di questo si tratta, cioè non ammantiamo questa cosa con delle cose oggettive, si tratta di spettacolo e questo mi va benissimo, cioè affrontare i temi di attualità facendo spettacolo. Loro dunque, siccome sono tifosi, uno del Torino, sfegatato tifoso del Torino, l'amico Giordano, e l'altro tifoso sfegatato della Roma, si sono messi un bavaglio. Siccome sono stati querelati, credo, da Rizzoli, dall'arbitro Rizzoli, parlassero invece, non avessero paura, parlassero, dicessero è stata una rapina, sono dei ladri, favoriscono la Juventus, perché si devono mettere il bavaglio? Parlassero, no? E quello sta zitto, vabbè. No, se vuoi conduco da solo, cioè non è un problema. Cioè, se vuoi conduco da solo, non è che un problema. Devo dire, ma no, ma se vuoi conduco da solo, se vuoi. Il povero Giordano stai zitto, se vuoi conduco da solo. Sono d'accordo con te su questo, che ti devo dire? Vai, non dire niente, vai, non dire niente. Che non ho niente da dire. Non dire nulla, non dire nulla. Su questa manifestazione. Se vuoi vai via, puoi uscire dallo studio se non vuoi condurre oggi, Puoi uscire tranquillamente, non è un problema, Cioè, non, uno viene qua e sta zitto, ma di chi stiamo parlando? Ho l'anestesia. Ma chi se ne sbatte? Ma ce ne sbattiamo i coglioni alle 19:21. Esci da là e non rompere i coglioni. Allora, la signora, la vedova del bandito che ha ucciso Stacchio, che ha occupato la casa, ha detto una parolina, poi magari più tardi proveremo a pizzicarla, la signora che occupa uno stabile, che è un ambulante, non so se romena, rom, quello che è. Sentiamo cosa ha detto. Avete che sono stata brava, sindaco, vede che sono stata brava, mi sono ho occupato un appartamento ancora piccolo, perché io lo so, guardi che io lo so che l'appartamento è troppo piccolo, L'appartamento è troppo piccolo. Sono in 5, per forza. Ah, beh, certo, cioè, diamogli pure l'appartamento grande. No, ma lei ha detto che era in corsa, per era in lista, poi a un certo punto misteriosamente l'hanno tolta. Cioè, il fatto che il marito sia stato, non diciamo cazzate, ragazzi, sia un rapinatore, che... sia, anzi, ma è morto, quindi. Ma ho capito, dire, ma non si possono occupare le case. Se è vero che comunque lei era nella lista, e aveva diritto, su, questo bisognerebbe indagare. Ma se è vero che era nella lista e aveva diritto. Mai? Ma beh, quale lista, che quale diritto? Ma se non è vero, va verificato. Ma è vero che cosa? Ma è vero era cosa? Nella lista, lo sappiamo? Dai, su. Lo sappiamo se era nella lista? Ma che vuol dire? Ma non è che uno occupa una casa, anche se tu sei stata estromessa, no, da una lista. Mettiamo, allora, che sia se vero. Lei era nella lista. Ma mettiamo che lista. Sia, ma non lo seconda, so. Seconda col punteggio, ma non diciamo dovuto. E a un se è vero, e a un certo punto è stata tolta soltanto perché il marito ha la colpa di essere un ex criminale morto, peraltro perché ucciso dal signor Stacchio. Beh, allora, amico mio, comunque è da capire perché ha occupato la casa. Ma chi se ne frega? Mettiamo che sia così. Se questo è tutto vero, ma mettiamo che sia così. Alle attenuanti generiche. Ma quale attenuanti generiche? Occupi una se cosa. Se è vero tutto questo, ma quando mai? Le sue colpe non sono quelle di essere la moglie di un ex criminale. Va bene, dai, Costantino Caserta, dai, 800 24 00 24, poi 393 71 71 701 per i WhatsApp. Vai, vai, Costantino, dimmi. Costantino, dimmi. Sara, Torino, vai. Ciao. Vai, Sara, dimmi. Buonasera. Dimmi. Ciao, volevo solo dire una cosa rispetto a qualche sera fa che parlavate con Luxuria. E era uscito fuori, si parlava così di sessualità, di sesso estremo, eccetera. E avevate chiesto a lei se era giusto o meno. E lei aveva detto... che il fine giustificava il mezzo. Ma chi? Di chi stai parlando? Scusami. Luxuria. Allora? Ecco, ha detto il fine giustifica il mezzo. Allora, poi si è andata al caso Varani e lei ha iniziato a dire, a parlare male sul genitore di Poppo rispetto ad alcune affermazioni che aveva fatto, eccetera. Dunque? Allora, mi chiedo una cosa, mi chiedo. Cioè, secondo Luxuria, questi ragazzi, no? Che cosa stavano facendo nella casa se non fare esattamente quello che ha detto lei? Cioè, ricercare un piacere estremo prendendo un ragazzo, seviziandolo, massacrandolo al fine di provare piacere? E allora questo, no, qua questo non è che lei l'ha negato, eh? Chi? No, non è che la Luxuria, quando è venuta da noi la settimana scorsa, non ha negato questa cosa? Assolutamente, però allora ha iniziato a puntare il dito. Il padre di Poffo. No, per alcune frasi, per alcune frasi che il padre di Poffo ha detto. Per alcune frasi, ho capito. Per alcune frasi però, che ha detto, in cui ha voluto rimarcare, in cui ha voluto rimarcare che il figlio, in cui ha voluto rimarcare che il figlio non era gay, non è gay. Ho capito, però voglio dire. Ma Sara, non ho capito vuoi dire? Non ho capito bene cosa vuoi dire. Io quello che voglio dire è che è facile fare il moralista quando intanto non sei né genitore né consigliere il fatto che queste famiglie comunque stanno soffrendo una tragedia. E seconda cosa, mi viene a fare il moralista sul fatto che poco prima giustifichi dicendo che il fine giustifica il mezzo. Vabbè, non ho capito niente, Sara. Alberto da Monza, dai, Alberto, vai. Molto, Cruciani. Dimmi. Hai detto una gran cazzata, perché hai detto che solo i romani, no? Dicono che gli juventini... No, ma non ho detto solo i romanisti, dai, in generale, dai, dimmi. Sì, però volevo dirti che non è affatto vero, perché volevo dirti che il suo direttore sportivo, quando è stato eliminato dal Bayern, ha detto che gli italiani contano come il due di picche quando l'abriscono le quadre rispetto a... Adesso non voglio aprire la discussione sui furti o non i furti. Che cosa vuoi dire? Non ho capito che cosa vuoi dire. Cosa vuoi dire? L'ha detto prima Parenzo, no? Rubava il suo ha rubato la Fiat di tutti i soldi di Pantalone, il suo, e rubano calcisticamente quello che va bene, ciao Alberto. Costantino, ciao. Caserta, vai. Sì, pronto, ti volevo dire che la persona più seria che sta in trasmissione è Parenzo. Sì. Due, l'errore l'arbitro lo commette al momento in cui ha fischiato il rigore. E quindi a quel punto doveva sapere, perché è un arbitro internazionale, che il giocatore va ammonito. Ecco, se non l'avesse fischiato il rigore non c'era, può succedere. ma visto che ha fischiato il rigore, ha ragione su questo, ed era l'ultimo difensore, il rigore c'era. Va bene, Costantino, non parliamo di questa cosa, non me ne frega niente. Sandro da Roma, non me ne frega niente, via. Sandro da Roma, vai. Sì, buonasera. Dimmi. Volevo tornare sulla Roma e sulla candidatura al sindaco di della Meloni. Dimmi. Secondo me non è distante da verità quello che ha detto lei, cioè che è uno spettacolo veramente indecoroso. E secondo me non sono... Ma che cosa, scusa, che cosa? Il fatto che si candidi la Meloni soltanto ed esclusivamente per prendere una migliaia di voti che poi verranno riversati nel secondo turno a Bertolato. Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene questo? Ma dove sta scritto? Sta scritto nelle giochi politici. Vabbè, Sandro, ciao. Franco da Torino, vai. Pronto, sono io, ciao. Dimmi, Franco, dimmi. Allora, io volevo solo dire che sono attonito dal fatto che due conduttori si imbavagliano per un orologio sportivo. Io ho sentito 10 giorni fa che ero in Germania, in prima pagina di Repubblica ho visto che c'era giustizia tributaria, che sono stati incriminati di aver aggiustato processi con le tangenti, eccetera, e non ho sentito mai nessuna trasmissione televisiva, compreso Floris Giannini, che non mettono in evidenza questo scandalo mostruoso della giustizia tributaria, che giusta i processi e così. Cosa vuoi dire? Che i conduttori di Mediaset che si imbavagliano dovrebbero imbavagliarsi? Sono penosi. Ma che perché? Una trovata? Ma che c'entra? Ma è una forma di protesta, dai, non fatela troppo lunga, su. Ma è... Franco, che c'è tu sei strano? Tifoso della Juventus? Sono tifoso della Juve, però dico, non mi sembra allucinante, ecco, che non si parli mai degli scandali, quelli veri. Vabbè, ho capito, tu vuoi dire una cosa, al di là degli scandali veri, che questi qua non si imbavagliano per le cose serie, tu dici, e invece si imbavagliano, che riguardano magari Berlusconi o altre cose, ma che e, si imbavagliano, e si imbavagliano invece per il calcio, Liguori e Giordano. Che mi sembra allucinante. Però, va bene, ho capito tutto. Solo perché questo è della Juve, dai, lo dici. P2 di questi qui che sono rubato allo Stato. E chissà in quali città oltre Milano. Ho capito, ciao. Ma io ti abbraccio forte, capito? JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aruba Soluzioni Cloud per le imprese. Solo su www.cloud.it. La Zanzara. Luciani, la ragazza che sto frequentando mi ha detto che sei il suo ideale di uomo. Adesso tocca colorarmi il dente di giallo anche a me. Giuseppe, dagli una scadenza a questo progetto di deflorazione, dammi retta. O prima di Pasqua o non se ne fa più niente, ok? Dammi retta, Peppi, dammi retta! Giuseppe, il mondo è diviso in due, quelli che sgommano la mutanda e quelli che non lo ammettono. Oh, abbiamo assistito nel pomeriggio a una specie di sceneggiata in televisione a favore degli agnellini da parte della signora Brambilla, cosa non nuova naturalmente, ma c'è il grande spottone. Michela Vittoria, dice. Sì, Michela Vittoria, il grande spottone Mediaset in favore della signora Brambilla, che vorrebbe togliere l'agnello dalla Pasqua. No, non è così. Vuole fare una raccolta firme, sì, perché i neonati... Non vuole togliere. Vorrebbe togliere l'agnello dalla tavola degli italiani. Per ora si accontenterebbe che non venissero uccisi gli agnellini di non mi ricordo quanti mesi. Ma non mesi. Dire cazzate. Era la proposta. Senti. Loro sono le mie bimbe, Martina e Valentina. Come potete immaginare, sono state salvate dalla padella, perché c'è ancora chi nel nostro paese pensa che mangiare queste meravigliose creature per Pasqua sia una tradizione da seguire. Ma c'è un sacco di gente che anche se è messa di fronte ai due agnelli da uccidere, non fa una piega. Il punto fondamentale è che chi mangia l'agnello in maniera consapevole, cioè un carnivoro o comunque uno che mangia ogni tanto la carne, dovrebbe dire: sì, è vero, io sono consapevole del fatto che gli agnelli e altri animali vengono uccisi, sono consapevole che ovviamente l'uccisione comporta la sofferenza, e semplicemente me ne frego, Perché questa è la realtà. Chi non è ipocrita, chi non è ipocrita e mangia la carne dovrebbe dire questo: è naturale la morte e la sofferenza degli animali per il nostro nutrimento. Chi non è ipocrita lo dice, chi è ipocrita fa finta di niente, no, non voglio sentire, non voglio vedere, eccetera, eccetera. Ma chi non è ipocrita ammette di fronte a tutti. Tu non vedresti una macellazione di un agnello? No, ma io ma che c'entra? Non vedrebbe, nel senso che... No, io nel senso che sono convinto che se uno... ovviamente, a me piace la carne, ma sono convinto che se vedessi la macellazione di un agnello, non credo che cambierebbe molto. Mi passerebbe l'appetito, ma... cambierebbe molto. La cosa fondamentale è una sola, che uno non deve essere ipocrita. Se continui a mangiare la carne, sai benissimo che un animale viene ucciso e che un animale soffre. E dunque, conseguentemente, devi dire me ne frego. È inutile fare dato, oddio, vengono ammazzati gli agnelli, oddio, che tortura, eccetera, no, eccetera. No, se mangi la carne, e se continui a mangiare la carne, anche poco, sei consapevole di questa cosa, sei consapevole dell'uccisione, sei consapevole anche della sofferenza. Ragazzi, nel mondo c'è la sofferenza. La sofferenza non può essere eliminata. Cioè, può essere limitata, certamente, ma non si può eliminare la sofferenza. È come voler eliminare... le persone, ma in generale, ma è come voler eliminare, non so, cioè, non, l'acqua. Ridurre la sofferenza, ma sì, d'accordo, quello si può ridurre. Anche nei modi di macellazione. Sì, nei modi, si può ridurre, certo, ma c'è sempre questo... sofferenza ci sarà, perché quando ti ammazzano la sofferenza c'è sempre, no? C'è modo e modo poi per ammazzare gli animali. E non c'è dubbio, però la sofferenza esiste degli animali ed esisterà sempre. Perché l'uomo è una cosa e l'animale è un altro, non c'è niente da fare, è inutile che girate attorno di fronte a questa cosa, è diverso. Comunque sentiamo gli spot della Brambilla, naturalmente a Mediaset, mangiare l'agnello è un cocktail di ignoranza, crudeltà e business, ma chi se ne frega, dai. Mangiare carne di agnello o di capretto a Pasqua, ma certamente non solo, lo considero davvero un oltraggio al mondo animale. Un cocktail di ignoranza, crudeltà e certamente business. Mi hanno detto pure la signora D'Urso un argomento che mi sta molto a cuore, un argomento che mi sta molto a cuore, il business dell'agnello, capito? Cioè si discute del business dell'agnello, dell'agnello. Ogni passo c'è anche vegan, c'è Canale 5 vegan, Canale 5, ci manca solo Canale 5 vegan e poi siamo arrivati al limite di tutto. Vabbè ragazzi, andiamo a Brescia. Matteo, vai. Pronto, Luciani? Dimmi. Allora, volevo parlare di... adesso però ho tre punti. No, tre punti sono troppi. Dai, dimmi. Ascolta, inizio subito. Allora, primo Liguori. Sì. Tifo Roma. Io sono di Brescia, ma tifo Roma. Sì, allora... E mi vergogno che uno della Roma dica queste cazzate, faccia queste cazzate. Vabbè, però, ma poi... quello perché Liguori... No, Liguori l'ho già scritto anche a Tiki Taka, raccontare cazzate, racconta sempre. Vabbè, racconta cazzate, va bene, d'accordo. Perché... Ti dico anche il perché. Perché è frustrato. Frustrato. Perché dovrebbe ma lei essere anche frustrato. Un tifoso però, no? È frustrato, sportivamente parlando, è frustrato, perché sono romanista come lui, vedi. Un po' lo capisco, però esagera. Vabbè, vuole poi... fare un po' di propaganda e San perdere. Secondo la Brambilla, che è una persona veramente mi fa schifo. Perché ti una persona schifo? Mi fa schifo perché non ha una un'idea vera, cioè non ce l'ha. Parla sempre solo per farsi notare, per fare anche lei un po' come vai, ambiti poi terzo di, punto, ambiti, andiamo diversi, veloci, terzo punto. Terzo punto, che non ci sono più. Che? Non ci sono più. Chi? Non ci sei più. Tu non ci sei, sei morto. No, beh, questo già si sentiva che eri morto un più. Po'. In che senso? Già si sentiva dalla voce, eri un po' morto, un po' anche strafatto forse. Che c'è? No, strafatto no. Non ci sono più, che vuol dire? Non ci sono più, basta. Non ci sei più. Ma quante canne ti sei fatto oggi? Canne no. Che ti sei fatto? L'eroina? Che ti sei fatto? La cocaina? Aperitivi. Sei ubriaco in pratica. Beh, è rovinato proprio. Sei rovinato. Rovinato, Parenzo. Quanto ti sei fatto di aperitivi? Comunque a parte scherzi, aspetta un attimo, fammi dire un'altra cosa. Cioè sei mezzo, hai già detto tre cose, sei ubriaco o no? Sì, può essere. Può essere ubriaco, guarda che è una brutta cosa però, non è bello essere ubriaco. Vabbè, ma ubriaco, se non ero ubriaco non ti chiamavo. Ah, tu dici, bisogna essere ubriachi per chiamare. No, per dire un po' di cose magari, sei molto vabbè, Matteo, adesso prendi una camomilla, una cosa tranquilla, un tranquillante, vai a letto, stenditi, no? Sono già nel letto, ti sto guardando sul computer, ti sto guardando sulla... Sei steso? Sì, ti sto guardando con la cuffia, te sei lì con la cuffia, ti sto guardando. È una voce comunque da fatto, questa. Sei steso, però. Sei steso bene sul letto. Ma sei sicuro che non hai preso qualche droga, no? No, o che me l'ha messo negli aperitivi, può essere. T'hanno messo qualcosa nell'aperitivo, A che ora hai preso sta aperitivo? Vai 5 del pomeriggio, scusa, sono le 7:40. Io sì, perché oggi ero in ferie, sono andato in giro un po' troppo e... Hai bevuto un po' troppo, eh? Sì. Comunque voglio dire, farti scherzo, aspetta un attimo. No, non puoi dire niente, basta Matteo, non è che possiamo fare la diretta da casa tua che sei strafatto di alcol e di altre cose, scusa. No, sto parlando, sì, aspetta un attimo una cosa. Dimmi tesoro, voglio una dire... fidanzata non ce l'hai, una con cui passare del tempo? Sì, come fa Parenzo, con queste condizioni? Voglio dire una cosa a Parenzo, una cosa veloce. Dimmi. Di qualcosa a Parenzo, dai. Che Parenzo a me piace molto come, aia, diciamo... Perché aia? Mi preoccupo, ma se il uno popolo, in la gente, ma non è il popolo, uno è in questo stato di salute. Beh, che certo, uno non può essere ubriaco, non ho capito. No, stato mentale, Parenzo, chiunque lo chiunque chiama il 90% per lui è un deficiente. Però volevo dire una cosa. Sì, vabbè, snob, caso, sai, 91, appartiene alla Roma bene. La Roma, ma no, Roma. Io guardo le cosa dicono le persone, vabbè, non Matteo, cosa allora... guadagnano o dove vivono. Volevo dire a Parenzo che secondo me molte volte lui, prima di sentire le persone, le giudica. Ah. Beh, lei però non è difficile da giudicare, diciamo, per quel che ha detto in questi pochi secondi, eh? Però per carità, sì, infatti io non sono molto da giudicare in questo no, oggi. No, ma infatti io non giudico. Beh, oggi però hai chiamato ubriaco, poi uno dice che sta. Infierisce. Ma infatti non dico niente, però sto dicendo a Parenzo, che sì, secondo me è una persona intelligente, che a volte però giudica troppo prima di sentire. Vabbè. Cose che so che a te non ti piacciono i complimenti, cose che te non fai. Vabbè, presente. Matteo, ciao. Ma... amico mio, ciao, ciao, grazie. Mi raccomando, prendi un tranquillante. Ciao. Angelo da Bari, vai. No, tranquillante, Angelo. Ancora di più. Angelo. Scompare. Mi senti? Sì, dimmi. Allora, tre cose. La sì, prima... Ma perché tutti tre cose, non solo una? Questa è un'altra follia. Perché uno tre cose? Una, cioè, la lista, tre, la lista, tre, sì, cose. Vabbè, allora, tre cose. Non sono ubriaco, ok? Tranquillo. Dimmi. Poi volevo dire che Parenzo non mi è molto simpatico, però... Vabbè, questo stasera, ce ne possiamo fottere, però, dai. Ok, però stasera gli do ragione sulla questione della vedova... che si è possessato dalla casa, cioè? Perché se effettivamente quella persona faceva parte di una lista, certo, e poi, ma ragazzi, stata... ma non diciamo cazzate, ragazzi, così, ma state, perché? Ma non, perché? Me ne frega niente, perché? Della lista, no, se no, tu ma hai... le cose vanno, no, valutate per come, perché? Sono, eh? Dite cazzate, ma sta, infatti, non è, sono mica in influenti. Scusa, Giuseppe, devi dargli la possibilità di parlare. Perché non fare un'indagine e vedere... Cioè, ma quale indagine? Vero. Ma c'è il sindaco là per quello, mica sei che sei Sherlock infatti, Holmes. Infatti, se per caso il sindaco, vabbè, l'avesse depennata... Hai, io ho detto solo questo. Ma depennata da cosa? Ma da quella nella lista non c'è mai stata. E chi lo sa? Lo sai per certo tu? Ma quando? Lo sai per certo? Vabbè, che vuoi, Angelo? Dove avrei detto sta minchiata, però, che vuoi? Dimmi. Vabbè... Tanto per te dicono tutte le minchiate. No, ma devo dover detto... Vabbè, hai ragione te. Poi? La terza cosa che ti volevo dire era di lasciarmi il discorso dall'altro giorno, che c'era quella famiglia che era andata a lavorare e poi è tornata a casa, ha trovato gli zingari dentro là, sì, che non potevano far niente, i carabinieri allora... non li potevano fare. No, io ti vorrei dire una cosa, che se succedesse a me una cosa del genere, io non chiamerei i carabinieri. E che io faresti? Sponderei la porta e li tirerei fuori per capelli. Sì, ho capito, ma non è che uno si può mettere a fare la guerra, eh? Cioè, la guerra per rioccupare una casa. Ma di che stiamo parlando? Ma non è che stiamo no, in... ma è casa mia, io l'ho pagata, ma stai scherzando? No, ma non chiama è... una guardia giurata privata e li fa sgobberare. Quella era una casa, scusami, anche quella è una casa popolare. Ah, quello che è successo l'altro giorno è una casa popolare? Angelo, ma se sì, non sai le cose, perché chiami? Sì, no, perché sono successe anche su case di proprietà. Ma che case di proprietà? Ciao Angelo, ciao, ciao. Oh ragazzi, io un po' di tedesco lo parlo, cazzo, ma fa cagare anche in tedesco, ragazzi, ma porca miseria, ma che cazzo, come ha fatto a vivere in Svizzera? La Zanzara. Allora andiamo a Roma, Daniele, vai. Ciao Giuseppe, ciao David. Dimmi. Allora, io Giuseppe volevo intervenire in merito a quello che hai detto prima, no? Perché a un certo punto, anche se si tratta di case popolari, però hai detto questi che occupano comunque dovrebbero ricordarsi che è un reato. Però in Italia, a quanto pare, non è reato, perché se si tratta di case popolari, ma anche di altre case, a me sembra che intervengano con lentezza. Se poi si tratta di case popolari... Guarda Daniele, che... io veramente vado ai matti, perché non si sente una mazza. Cioè, non mi si senti? No, non si sente una mazza. Caspita, mi dispiace, mannaggia. Ciao, Ciro, provincia di Salerno, dai, Ciro, dimmi. Uè, Cruciani, Parenzo, dimmi. Buonasera. Dimmi. Ciao, caro. Dimmi. Poi ti volevo fare due punti, non come gli altri 3-4 che si facevano i campari. Due, una rivolta a te, anzi è un'altra a Parenzo. Parenzo non ha capito una cosa, che la moglie del rom ucciso, Sacchio, non ha capito che quella appunto alla reversibilità, che il marito è morto sul lavoro, ma non nel caso dei rapinatori rom. Ma non credo proprio. Poi? Poi io ti volevo fare gli auguri della magica fetta a Pasqua, gli agnelli. che poi siamo in Italia, è una battuta sarcastica, quella perdita della Brambilla, che quella è una grande perdita. Che cos'è? Gli italiani sono una scorreggia. Ah, una scorreggia, bene. Perché dovrebbe essere una perdita? Perché il contraddizione italiana, promuoviamo il prodotto italiano, i vegani, no, dobbiamo levare la carne di mezzo. Il prosciutto crudo, il prosciutto cotto, i salumi, i formaggi, quelli nostrani, italiano lo ammalora niente. Ma se a te la canna non ti piace, non te la mangiamo, ma mica cade il cazzo a me, che mi piace una bella fella di carne, un bel panino per la mortadella, un bel scuccino di pane con il prosciutto. Oh no, Crucia, che ci sono gusti. Ciro, e io penso come te, che devo fare? A me l'agnello non mi piace, non mangio, ma io non dico una vita cince, che cazzo? Scusami il termine. No, per carità. Ciao Ciro, ciao, ciao. Grazie, ciao a tutti e due. Ciao. Allora, possedendo noi il numero di telefono della signora Cristina Albini, già vedova del bandito, come sapete, del rapinatore che è stato ucciso dal benzinaio Stacchio, che ha occupato una casa ATER, cosiddetta ATER, cioè dire una casa popolare a Fontanelle. Io proverei a fare una telefonatina alla signora. Pronto? Sì, signor Albini? Chi parlo? Salve, buonasera, mi chiamo Cruciani, chiamo dalla radio, buonasera. Buonasera. La disturbo? No, mi dica. Salve, volevo sapere come mai aveva deciso di fare questo gesto, cioè l'occupazione di quella casa. Cosa vuole che le dica? Io l'ho fatto perché sono stata portata a farlo, dove ho chiesto un aiuto e non ho visto nessuno e mi sono, come si dice, l'ho fatto per i miei figli, ecco. Quanti figli ha lei? Cinque. Cinque figli. E chi l'ha aiutata a occupare la casa? Nessuno. Da sola? Certo. Scusi signora, però vorrei chiederle una cosa, ci sono delle graduatorie per le case, no, di solito? Certo, ci sono delle graduatorie, sì. E perché lei non rispetta le graduatorie? Guardi, se non avrei avuto le carte in regola non l'avrei fatto sicuramente, non voglio passare davanti a nessuno, quindi la graduatoria l'ho rispettata dal 2006 fino ad ora. No, però scusi, se uno è in regola non è che va a rompere le vetrine e entra dentro casa, a rompere le finestre, scusi signora. Guardi, le finestre non sono state rotte perché non ci sono neanche i serramenti, quindi... E come è entrata lei dentro casa? Ho alzato la saracinesca perché non ci sono i serramenti. Ma se tutti quanti facessero così, signora, sarebbe un casino. Infatti, continuano a farlo però. Non vedo il problema, perché l'ho fatto io, dovrebbe che sia uscita tutta questa polemica qua, che giornali, televisioni, che poi tra l'altro non sono la prima e neanche l'ultima. Ripeto, io non l'ho fatto per fare un dispetto a nessuno, non voglio portare via la casa di nessuno. Beh, non ho capito, ma lei però occupa una casa illegalmente, signora, lo capisce o no? Lo capisco, sì, mi sono autodenunciata. E lei fisicamente, signora, come è entrata dentro casa? Scusi, me lo può dire? Come fisicamente? Senta, mi sono arrampicata e sono entrata, ho alzato la saracinesca, sono entrata, ho aperto la porta, ho fatto entrare i miei figli. La casa com'era messa? Chiusa, ristrutturata ma chiusa, nuova ma chiusa. Nuova, è spaziosa, è accogliente per cinque figli oppure no, oppure è piccola? No, diciamo che non è per cinque figli, da quanto risulta a me qua ci sono due camere, cucina e salotto e bagno ovviamente. Dunque? Però... Sì, non è che sia tanto grande. Non è grande, ce ne vorrebbe una più grande, dice lei. Sì, ma l'importante è che i miei figli abbiano la loro cameretta. E... Ma lei non se ne va da là adesso? Certo che no, io sto aspettando una proposta dal sindaco, sto aspettando che qualcuno mi dica qualcosa. Ma non si può sopportare l'idea che una persona entri dentro una casa pubblica, la occupi e dopo chieda al sindaco che... No. Guardi, è sbagliata questa domanda, io le rispondo subito perché io ho sempre chiesto aiuto al sindaco di avere un alloggio. Ma ho capito, ma tutti chiedono aiuto, però ci sono le graduatorie poi, se lei non è in graduatoria significa che non hai i requisiti. Guardi che io ero in graduatoria al secondo posto con 8 punti. E che è successo poi? L'hanno cacciata via? Che è successo? Non lo so. Mi hanno tolto dalla graduatoria, secondo lei è giusto? Ma questo perché? Perché lei è la vedova del signore là, di quello che è morto? Mi risponda lei, non lo so, mi risponda lei. Questo io voglio sapere anch'io questo. Cioè lei dice, ero in graduatoria e mi hanno tolto dalla graduatoria. Basta, mi hanno tolto la graduatoria e la mia domanda non c'è più. Comunque signora, quando uno occupa una casa, a un certo punto arriva la forza pubblica e uno va via, punto e basta. Non è che può succedere altrimenti. Lo so, però... E se arrivano i carabinieri, lei che fa? Guardi che mi sono autodenunciata ai carabinieri io, non ho avuto problemi. Ho capito, lei si è autodenunciata in modo che mette un punto fermo, dice io sono lì. Non è vero, non è vero. è un trucco, quello è un trucco, signora, autodenunciarsi ai carabinieri è un trucco per rimanere dentro la casa. Non penso proprio, perché io ero consapevole e sto portando avanti le conseguenze. Beh, guarda, sì, lei ha occupato una casa, certamente non è una, ha fatto un gesto illegale. Io ho occupato una casa dell'ATER, non ho voluto portare via la casa di nessuno, questo... Ma è nostra, è dello Stato quella casa, è dello Stato. E... Comunque lei non esce da casa, eh? Lei quella casa là non esce. Io non esco, guardi, questo lo faccio solo per i miei figli e non ho problemi a portare avanti quello che ho fatto. Io non mi sto nascondendo, eh. Sì, ho capito, signora. Lei non si sta nascondendo, d'accordo, quello che vuole lei. Però un fatto è chiaro, al di là delle graduatorie, non graduatorie, quello che è stato, quello che non è stato, lei è entrato dentro una casa, ha aperto una tapparella, è entrata dentro e si è piazzata con i cinque figli, è andata dai carabinieri e ha detto io occupo quella casa. E nessuno fino adesso l'ha cacciata via. Lei dovrebbe essere cacciata da lì immediatamente. Glielo dico molto chiaramente, immediatamente. Cosa mi dice degli extracomunitari che hanno occupato un palazzo di... Male pure quello, male, non si occupa niente. Invece no, secondo me, ecco, però vede, per l'opinione pubblica sono obbligati a trovare subito delle sistemazioni per quelle famiglie. Ma perché è giusto occupare, secondo perché lei? Perché io devo essere penalizzata? Che penalizzata? Senta, vada a lavorare e si trovi un lavoro per pagare un affitto come guardi, fanno... Guardi che io sono ambulante. Come fanno tutti gli italiani, si lavora... Io ho sempre lavorato, ho 33 anni. Benissimo, ottimo. Il comune non mi ha mai passato niente, io non ho mai chiesto affitto comunale, tantomeno passato... Ma sa quanta gente c'è che campa così? Tanta gente potrebbe dire ho bisogno della casa non riesco ad arrivare in graduatoria. Mentre ci sono famiglie che dopo 2 anni hanno un alloggio, io sono 10 anni che sono in graduatoria. Lei pensa di essere discriminata? Se è così faccio una denuncia ai carabinieri, denunci no, di essere... No, non lo fa. Perché evidentemente non c'è niente. Guarda, ma scusi, ma perché lei non si cerca una casa come tutti gli altri, come tutti gli altri italiani? Paga, lei, ma ho capito, ma c'è tanta gente che lavora e chiede l'affitto. Poi se ci sono i requisiti entra nella graduatoria, punto e basta. Ma se è dal 2006 che sto facendo una domanda... Ma un sacco di gente fa la domanda. E io, appunto... E lei che lavoro fa, scusi? Io sono ambulante. È ambulante. E ho capito, ma non è che se tutti gli ambulanti cominciassero a occupare le case sarebbe un disastro, signora. E lei come considera suo marito, quello che è morto, Albano Cassolo, una brava persona? Certamente. Mio marito era la persona più brava... questo mondo. Beh, insomma, faceva le rapine, signora. Mio marito non faceva le rapine. E perché era lì, scusi? Mio marito, per quello che ha avuto, ha pagato. E per quello che è successo non so rispondere. Mm. E Stacchio come lo considera, signora? La persona che ha ucciso mio marito. Com'è? Un assassino? Guardi, non voglio rispondere. Se fosse veramente una persona che dice di avere cuore per i miei figli, lui saprà rispondere. Cioè? Dovrebbe occuparsi dei suoi figli? No, assolutamente no. Per i miei figli ci sono io. Guai. Quando vede Stacchio in televisione, che cosa prova? Io non provo niente, non provo rabbia, non provo niente, perché l'indifferenza è la miglior cosa. Sì, certo, le colpe del marito, io dico che le colpe del marito della signora non possono ricadere sui cinque figli e su di lei. Così, signora, però... perché era lì? Perché stava facendo una rapina? Non era un ladro, non era un passante. Lei mi viene a dire che mio marito andava a fare rapine, a me non sta bene perché mio marito non c'è più. E ho capito, però, signora, bisogna prendo un po' di rispetto. Ma no, ma ha ragione, me, su questo ha ragione. Io non ho detto nulla, in quel momento faceva delle rapine e non è che ho detto che era... In quel momento lui ha fatto quel che ha fatto, però bisogna anche capire perché l'ha fatto. Ho capito. Bisogna colpevolizzare una persona, perché ci sono persone che uccidono bambini, violentano bambini. Vabbè, ho capito, quello è un altro discorso. Ecco, mio marito non ha mai fatto cose... Lei dice che non meritava di morire. Certamente no. E siccome viene considerato un eroe, Stacchio adesso, viene considerato un eroe da tutti. Perché gli eroi esistono solo nei fumetti. Va bene, no? Grazie signora, grazie, molto gentile. Saluti, cara. Grazie. Guarda che c'è gente strana in giro, c'è gente strana in giro. La Zanzara. Parenzo, io di solito sono sempre con te, però la prossima volta che dici che uno che occupa una casa abusivamente è da capire o bisogna capire per quali motivi lo fa, io giuro che ogni volta che racconti una cazzata del genere in onda ti faccio addebitare una rata del mio mutuo sul tuo conto corrente. Così siamo a posto, va bene? Cruciani, io abito vicino a una chiesa. Quando fanno la messa mi sento nelle orecchie questo cazzo di rumore delle campane. Non le sopporto, fai qualcosa, ti prego. It's a Allora ragazzi, andiamo a Teramo. Ugo, vai. Ugo. Vai, buonasera, Ugo. A tutti. Dimmi. Buonasera. Sono Dimmi. Sentito tirato in ballo per due motivi. Uno, faccio il veterinario. Non si sente niente, adesso cancello tutti oggi. Davide da Roma, vai, Davide. Davide, dimmi. Giuseppe, dimmi. Senti? Sì, dimmi. Sì, senti, no, io ho sentito durante il vostro radiogiornale che Renzi sarebbe andato lì in Spagna sul luogo di quell'incidente. È andato, non sarebbe. È andato. Adesso, in realtà sto guardando su internet, non la ritrovo la notizia. Vabbè, allora... Però ci credo. No, allora per me è un atto di sciacallaggio estremo. È andato in Spagna, sono morte delle persone, adesso non esageriamo. Dai. Ma questo è pazzo. Scusa, ma cosa è andato a fare? Dimmi ma un motivo. Ma il Presidente del Consiglio. Ma di solito queste cose si fanno. Ma ci si fanno sempre queste cose. Che c'è? Non si fanno mai, stato Renzo, di vicinanza alle fa? Famiglie. Ma non diciamo stupidaggine anche ma su scusa, questo, dai. Poteva fare molto altro, diciamo, io no, penso che forse poteva anche cosa, poteva perché anche prendere... guardi, io faccio parlare con Lorenzo, fallo parlare. Ma è una stupidaggine però totale. Se mi fai parlare, si può fare polemica su Renzi su qualunque cosa. Lo fai parlare o no, dai. Ma non su questa stupidaggine. Dai, dimmi. Poteva affittare, poteva prendere anche, che ne so, un albergo lì, prenderlo tutte quante le stanze per i familiari, cioè organizzare un volo per i familiari, non che lui prenda con la sua faccia a magari faranno magari faranno qualche consenso, fanno anche quello, lo Stato si fa carico del ritorno in Italia delle salme. Ma perché deve dire cazzate lei? Questa volta si può attaccare Renzi su mille cose, ma non su questa cosa qua, anzi. Valido e serio per cui un premier prende, vola a ma è in rappresentanza dello Stato per dare il cordoglio ai familiari, no? Si fa sempre. Il cordoglio ai familiari di persona, ma cosa pensi che c'hanno i familiari in testa in quel momento? La stretta di mano di Renzi, ma come, ma cosa stai dicendo? Allora Davide, Davide, se non ci va, se non va lì viene attaccato perché dice che è indifferente, eccetera, eccetera. Giuseppe, io sono quasi sempre d'accordo con il fatto che non bisogna andare nei posti dove succedono dei grandi lutti semplicemente perché non serve assolutamente a nulla, serve semplicemente a fare ecco. Però detto questo sono quei gesti che lo Stato fa, che i capi di Stato fanno, ma dimmi un altro esempio, io non l'ho mai vista una cosa del genere, ma è io successo in tante occasioni di fronte a drammi di questo tipo cose perché pensa più di tutti gli altri che abbiamo avuto prima che gli italiani sono dei grandissimi è successo coglioni. Nel caso del Bataclan a Parigi. Aspetta, fammi sentire un attimo, cioè secondo te è un atto andare in Spagna dove è successa la tragedia lì è un atto di sciacallaggio per prendere dei voti? Non ho capito. Per acchiappare qualche misero consenso, assolutamente sì. Mai sentita stronzata più grande. Non lo so, in questo caso francamente non mi sento di attaccare Renzi perché è andato lì, cioè, ma no, io vorrei allora guarda, se poi se poi trasforma ma non è questione di intelligenza, se poi uno trasforma stai un attimo calmo, cercate di convincermi che ha fatto bene. Allora, se trasforma questa roba qui in una sorta di passerella eccetera, è una cosa. Se uno va là, com'è questo? Se uno va là, dai, ma è andato anche per il Bataclan, ma che dite? Ma si fa, basta. Non ho detto niente. Una cosa, se permetti, il Bataclan è discutere che cos'è cosa. Che non sono morte sei persone, sei ragazze italiane. Ha un incidente. Ma dai, ma chi sta a discutere di incidente? Ma lei è stupido, non fare proprio. Queste cose. Ma no, proprio dice che una cosa è un attentato terroristico, una cosa è un incidente, dice. Assolutamente. Dice. Va bene, Davide, grazie. Ciao, Paolo Roma, vai. Paolo. Dimmi, Andrea da Milano, vai. Sì, ciao. Pronto? Dimmi Andrea, dimmi. Sì. Allora, io intervengo per il ragionamento di Berlusconi, vai. Che apparentemente sembra una stronzata, però potrebbe avere quale? Un suo senso logico, quello dell'edificazione dei villaggi per i Rom. Ah, bravo, sì, giusto, bravo, giusto. La considerazione è questa, si spendono tanti soldi, adesso è difficile se non impossibile stabilire quanti siano, per mantenere quell'etamaio in cui vivono. Esatto. Se si utilizzassero gli stessi soldi per realizzare degli agglomerati, esatto. Come dire, farebbe un favore a questi signori che probabilmente non ne hanno bisogno. È una stronzata sia di Parenzo che di Berlusconi. No, no, è pragmatismo. Uniti governo, nella stronzata, in tre siete. No, siete in tre adesso. Andrea da Milano, Berlusconi e David Parenzo. Tre stronzate. L'unica ricetta è molto semplice. Berlusconi, Bertolaso, Parenzo, sindaci che ricetta... hanno risolto i problemi anziché fare le ruspe. La ricetta è molto semplice. Sono in tanti che l'hanno risolto. Chiudere i campi rom... Chiudere i campi rom, le famiglie non sono dei gruppi, sono delle singole persone, stai zitto un attimo, delle singole persone che si vanno a cercare le case come tutti quanti noi ce le andiamo a cercare. Vabbè. Come no? Perché no? I problemi si risolvono, aspetta, no? Le questioni sociali si risolvono. Va bene, Andrea, dimmi. L'altra condizione è che questa stessa misura evidentemente deve essere utilizzata per coloro che si trovano in difficoltà, certo, sono cittadini italiani che forza, magari hanno sì, avuto quello già c'è, esistono le case popolari con le liste che non funzionano, purtroppo. Bisognerebbe però che diamo casa a tutti, ai rom, ai vegani, diamo casa ai vegani. Stato sociale, si diamo casa ai vegani, dai, i vegani che c'entrano, i vegani. Diamo casa ai vegani, agli obesi, perché no? Non c'entrano, gli obesi hanno, se gli obesi hanno diritto a essere nella lista in quanto non obesi, ma in quanto disagiati, diamo casa agli obesi, diamo casa ai, perché allora, se ne hanno diritto possono essere obesi o magri, ma bisogna dire se ne hanno diritto, diamo casa ai fruttariani, se non hanno lo stipendio e hanno cinque figli hanno diritto a una casa, siano essi fruttariani o bubù. Va bene, Andrea. Riccardo da Firenze. Riccardo Firenze, ciao. Cruciani, sì, dimmi. Ti volevo chiedere, invece di parlare continuamente di stronzate, perché sì, non parliamo un po' di terrorismo e di tutte le minchiate che ci dicono i TG e le stronzate? Raccontacele tu le cose vere, professore, dimmi, no, dai. Dimmele te, Cruciani, dimmele te. Dai, dimmi. Dimmele forza, te, Cruciani, che sai tutto. Dimmi te. Io non so niente, chi Riccardo. Chi sono i terroristi, chi li finanzia, dimmelo te. Riccardo, noi lo sappiamo che cosa hai chiamato a fare. Lo sappiamo bene, ecco, appunto, come stanno le cose. Lo sai allora, anche te. E allora parla e tu. Lo sai anche te. E allora parla. Bene. Parla allora, vai, no, parla. Dimmelo te, invece ma di cosa, di ma di cosa vuoi parlare? Dei terroristi. Ma di cosa vuoi parlare? Di Berlusconi. Ma di cosa parliamo vuoi parlare? Invece delle cose reali, di come funziona il mondo. Vabbè, per una quando, volta. Quando ha smesso, poi riprendiamo la trasmissione. Per una volta parliamone. Sì. Perché poi, vai, parlando di queste cose, avete parla. Cagate in mano, capito? Parla tu, dai. Professore, parla. Dai, parla. Sul web non lo vedi? Sul professore, web parla. Vedi. Il web non lo vedi? Sul web non lo vedi. Quale web? Il web. Ho detto il web non lo vedi. Il web. Non lo vedi? Sei fuori dal mondo, sei ma fuori dalla dire realtà. Ma non cazzate. Vai, Riccardo, non dire cazzate. Non dire cazzate che ci basi una trasmissione sulle stronzate. Vai, forza. Ciao. Allora, ma non hai detto niente. Ha chiamato, non ha detto niente. Massimo da Padova, dai. Massimo, dimmi. Ragazzi, ciao. Sì, dimmi. Pronto, allora, niente, volevo dire questa cosa delle occupazioni, delle case, delle proprietà. C'è questa cosa che si chiama usucapione, sì, che è il fatto che tu puoi occupare una proprietà e una casa. Non c'entra legale, niente questo, no, non puoi occupare una casa, non puoi occupare una casa pubblica, amico mio, non la puoi occupare, punto sì, e basta. Occupare. Cioè nel mondo occupare normale non la puoi occupare, in Italia si può occupare. Non purtroppo si può, in generale non si può occupare. Sì, ma purtroppo in Italia se la occupi non ti succede quasi mai nulla. Ma nulla, dipende. Nulla. Dipende. Cioè uno può farlo. Ma che ma cazzo poi c'entra? Quella è un'altra cosa, dai, su, quello se rimani dentro un tot di anni. Quello è un istituto per cui tu acquisti, non c'entra nulla della casa, ma non c'entra niente con l'occupazione abusiva, nulla. Nulla. Ma infatti non esiste l'occupazione abusiva. Vabbè, Massimo, non ho capito perché cosa hai chiamato a fare, spiegami. Per spiegare questa cosa. Ma che è sbagliata, che non significa un cazzo. Mi dispiace per te, ma non significa una mazza, è sbagliato. Ciao. Mattia da Milano, vai. No, ehi. Dimmi, Mattia, dimmi. Senti, Cruciani, senti, ti devo dire una cosa. Dimmi. Praticamente oggi mi sono laureato sì, in cattolica, in finanza, e quindi sì, volevo renderti partecipi di questo grandissimo evento in quanto ti seguo ogni giorno. Bene, molto bene. Molto bene. Allora? E però ti volevo raccontare che ho mandato a fare in culo il mio professore della cattolica. In che senso? L'ho mandato proprio a fare in culo perché durante la discussione mi ha trattato da... Che ti ha bocciato? No, che mi ha bocciato? Semplicemente non, mi ha fatto una domanda che non era prevista e insomma mi ha trattato male davanti a tutta la commissione. Io di conseguenza scusa, l'ho mandato a fare in culo. Ma pazienza, adesso il fatto che tu abbia mandato a fare in culo il professore durante la tesi. Però è della cattolica. Della cattolica, a noi che cosa ce ne frega? Niente, io ti volevo semplicemente. Cioè, mi volevi dire che ti sei laureato e hai mandato a fare in culo il professore. Sì, ma sì, ma sì, qual sì, è stato come dire, l'elemento di discussione? L'elemento di discussione era proprio, siccome sono laureato in finanza, le società di rating e i rating relativi al debito sovrano. E allora? Niente, ti volevo fare presente, sapevo che mi mandavi a fare in culo dopo due secondi. No, volte, non, però... non è che no, ti devo no, andare no, a fare in culo dopo due secondi, ma non capisco ma io... qual è l'argomento. Cioè la... No, non è nessun argomento, ti volevo così, cioè, così. Ho mandato a fare in culo al professore. Come il quale che ti ha detto? Che cosa ti ha detto questo professore? Niente, non ha avuto nessuna risposta, perché secondo lui era giusto che mi trattassi in quella maniera. Sì. Però ho avuto una soddisfazione personale nel mandare a fare in culo un professore della Cattolica. Vabbè, se ti piace così. Mi piace così. Vabbè, Mattia, ciao. No, dai. Beh, cari amici miei della Zanzara, siamo al top, eh. Siamo veramente al top. La Zanzara. Cruciani, in questo weekend ho mangiato gallina, faraona, coniglio e cinghiale, ma soprattutto con il parabrezza della mia auto ho ucciso un sacco di moscerini. Devo costituirmi alla polizia vegana? Allora, abbiamo assistito a un super Lemme ieri dalla D'Urso, il mitologico professor Lemme da Desio. Quello della dieta, quello che si possono mangiare, i grassi, eccetera, eccetera, contro tutti praticamente, contro per esempio Cascella, contro la Rinaldi, sentiamo. Quanto si paga per avere solo una dieta da lei? Solo 244 euro al mese. 244 euro al mese. Per digiunare? E stia zitta, per cortesia, è una gallina. Ma come mai? È una gallinella. Ma io che ti piace no, il massimo. Vabbè, però lei, no, innanzitutto io sto parlando in maniera educata. Massi, lei è un gran cafone ad offendere ma una donna. Ma questo sei tu. Ok? È un gran cafone. E lei è una gran testa di donna. Quindi dei termini consoni a quelli che sono... È una gran testa di donna. No, lei non ecco può qua, parlare. Ecco qua, sto offendendo di nuovo tutte le donne. Che quando viene una paziente da te inizi a dirle guardate allo specchio, no, fai no, schifo, dico, buongiorno, c'è cicciona. No, dico, buongiorno cicciona. Buongiorno cicciona. Non si vergogna andare in giro in quelle condizioni? Ma non si vergogna? E stia zitta! Aspetta, lei. Aspetta, carina. Lei è un essere vivente nonostante femmina, è un essere vivente. Ma cosa è un essere vivente? Aspetta. Nonostante femmina. Ma lei vuole fare arrabbiare veramente? Aspettate ragazzi. Un attimo. A parte che un medico non si rivolge mai con questi termini. Sono un fantoccista, non sono un medico, che non è posso altro. Fare quello che voglio. Un lemmente catto che non può mandare questi messaggi a persone che hanno problemi di salute. Non li deve mandare lei. Questo è Lemme contro Nadia Rinaldi, eh? Lemme contro Nadia Rinaldi, grande personaggio scoperto dalla Zanzara, Lemme, eh? Senti. Perché la pelle cede in quando è si perdono lei, 80-90 kg. Signora. Cede! In cosa è laureata? Io vorrei vedere i genitali del signor Briatore, se lei è riuscita a mantenere il sogno. Brava Nadia! Ma state zitto, ma ancora parla. Ma non vedi che è ancora cicciona la Nadia? No, cicciona, vai, cicciona, vai. Silenzio. Ma guardiamo la ma stai tua, zitto, ma cretino. Scusa, ringrazio Dio che sono a Roma. Cicciona, mi dispiace. Ringrazio Dio che sono a Roma. Ma lei se l'è vista la panza. Ti tolgo quegli occhiali e ti prendo a sberle. Cretino. Grande momento di televisione super popular che qualcuno definirebbe trash, diciamo. No, il professor Lemme, dietologo, che ce l'ha con i ciccioni, contro un po' di persone messe lì per fare casino, diciamo la verità. Tra cui la signora Nadia Rinaldi, che non so se possa essere definita cicciona, sicuramente è scalavevole, dai, ma come si fa a insultare così? È il numero uno. È il numero uno, può dire tutto quello che vuole, farmacista, cicciona, pazza, demente, tutto quello che vuole. Rimarrà cicciona, signora. E tu rimarrai un povero demente. No, ricco demente. Un povero demente, ricco, demente. Sei un demente. Ricco. Scusami Nadia, siccome ricco di mente alle spese degli altri che gli rubi i soldi. Se voi siete ciccione, che colpa no, ne ho io? Ciccione è lei! Che colpa quando ne ho io? C'è intelligenza, c'è eleganza! Lei è un demente invece! Io sono demente, ma lei è ciccione! È un demente con la panza! È un demente con la panza che se nasconde dietro la cravatta, capito? Va bene. Se alzi su e faccia vedere sto panzone! Certo. Dottore, allora un attimo! No, va! Oddio, si è alzato! Ma cosa fa? Guardate che sì, questo! Ah, cicciona! Ciccione. Ah, lei mi è da richiamare al più presto, il professore. È da richiamare al più presto, al più presto. Allora andiamo a Sassari, Antonello, vai. Buonasera, salve Luciani e Parenzo, siete unici. Niente, se volete scendere giù in Sardegna, cioè, stasera sono unico io. Stasera sono unico perché Parenzo è quello che è stasera. No, Antonello, no, ci sono, sì. Ma ho ancora gli effetti postumi. Sì, ma uno, della... cioè, se uno va dalla... Io non è che vada alle 4 di pomeriggio, e non andare. Ma vado la mattina. Sono andato, ma se lo poteva prima, che devo fare? Antonello, vai su. Ma ragazzi, mica tutto gira intorno a noi, sì. Cioè io mi presento al lavoro con la voce funzionante, non mi presento con la voce assente. Se una volta c'è un problema alla voce non andrai in onda, che ne so io, ti sarà capitato, no? Sta facendo le notti fuori per il figlio, mica gira dai. Tutto, mica è meglio la cosa che gira intorno a te, come si chiama lì la pubblicità, adesso non voglio fare. Lasciamo perdere, vai, Antonello da Sassari. Non so come vai. Si chiama la banca, Antonello. Ecco, la banca che gira intorno a te si sì, chiamava lo va bene, Antonello da Sassari, vai, forza. Niente, venite giù in Sardegna e mangiamo il maialetto, capretto non mangio e agnello col mirto. Vabbè, sì, lo sappiamo che c'è alla faccia dei vegani che ci considerano no, che no, mangiamo vegani, cadaveri. Vegani, non sbagliamo, vegani, non vegani, vegani. Vegani. E vabbè, oltre ad averci riferito che mangi l'agnello, il capretto col mirto, cosa ci vuoi dire? Niente, voglio dire questa stupidaggine di grande idiozia che sta venendo fuori in questa civiltà di oggi, i vegani. I vegani, sì, i vegani. Cosa faresti ai vegani tu? Che non ci scassino i coglioni, noi facciamo la nostra vita e loro si fanno la sua. Li dica la brambilla dove cazzo compra e i suoi stivali di pelle. Magari non, non ce sono pelle, magari non ce li ha e usa pelle. Scarpe vegan o cruelty free o animal free o come cazzo si chiama. Va bene. Tanto qualche cosa di origine animale c'è sempre. Mauro Damanto, ma che non credo che sia il nostro amico Mauro Damanto. Va vai Mauro. No, sono un altro Mauro, ma sono tuo amico, non di quell'essere che hai vicino. Evidentemente stasera, oltre alla voce, il cervello gli manca tutte le sere, ma questa sera gli manca anche la voce. Che ha fatto? No, è la voce, è la gengiva. Vabbè, allora? Cioè, quello che è, cioè non voglio parlare con lui, io volevo chiedere... Beh, è reciproco, sa meglio. È vero quello che dice quel signore che è di fianco, che... sono da capire le persone che occupano non ho detto questo altrui. Non ho detto questo sì, praticamente l'hai detto non ho detto dipende questo. Dai casi non ho detto questo non stiamo ho detto questo mi dispiace non ho detto questo riascolti non ho detto questo ho detto no, che non va ho sentito, va ho sentito intanto dire. Vanno accertate i fatti cioè, sicuramente quella ha occupato una casa e questo non c'è ombra di dubbio no, ma basta va questo. Visto basta se fuori, lei aveva diritto ad avere quella deve casa deve andare perché fuori era a calcio lì. Nel culo se a lei aveva diritto fuori, ad avere quella culo, casa ed è stata tolta tua. Dalla lista semplicemente perché moglie che stai la sua dicendo colpa. Mauro che stai dicendo scusa vabbè, non che vanno spediti tutti a casa sua ma che se li ma prendesse tutti a casa chi lui italiana, quelle, ma tutti chi lì. No, ma tu non questo, è quanto è stupido da 1 a 10 ma perché sta dicendo una cosa una ma cosa ma una stupidaggine prendi a casa sua che io vuol dire una stupidaggine da 1 a 10 ma tu se sei quella 11, ha cazzo. Occupato una quella, casa in allora, maniera abusiva la cosa da capire ma non me ne frega niente quello facesse causa al comune non rompessero i coglioni allora siccome mi pare che la signora non si sia sottratta al dibattito anzi si è autodenunciata non è che è stata zitta quella si è autodenunciata chiamatemi sindaco voglio vedere se è vera questa cosa questa puttanata che ha detto l'occupante della casa se l'occupante abusiva della casa la signora ha mostrato anche una dignità assoluta di una donna che dice no assolutamente sì. Assolutamente sì. C'è una che occupa una casa, secondo te no, è una dignità. A parte che ogni fatto va capito quello che succede. Cioè, le cose non sono tutte uguali. Non è che uno è stronzo, o tu sei una merda, sei una merda. Se tu sei una merda per diverse ragioni, altre sono una merda per altre ragioni. Cioè, ogni persona ha una sua aspetta, storia. Fammi chiamare il sindaco. Se questa qui è vero che era in lista, con tutto il diritto ad averla a casa, e gli hanno tolto quel ma diritto quale solo tolto perché il diritto? Moglie. Se è vero questo, io ho detto accertiamo se è vero. Perché se è vero questo. Sindaco? Sì? Sindaco, salve, buonasera, sono Cruciani dalla radio, salve. Salve sindaco, senta, siccome abbiamo sentito la signora... Sindaco di che cosa questo qua? Sindaco di... come si chiama il suo paese, sindaco, scusi? Fontanelle. Fontanelle dov'è? Fontanelle. Vicino a Conegliano, tra Conegliano e Oderto. Bene, allora, la signora, come si chiama? La vedova del bandito? La vedova Cristina Albini. Esatto, Cristina Albini sostiene... Di essere stata tolta da una lista dalla quale... Non esiste. No, non c'era la lista. Ecco, meno male. Subito messa a tacere la signora occupante abusiva. Allora, non c'è la signora dice: io ero seconda nella lista, mi hanno depennato e poi ha fatto capire perché sono in realtà la vedova del rapinatore. Non è vero. Non è mai stata in nessuna lista? No, è stata nella lista, soprattutto fino al 2009, quando lei doveva continuare, eventualmente c'era un problema di... in sostanza lei, senza fissa dimora, hanno il civico 1... che è praticamente il comune in cui risiede, e mentre alloggiavano in via Moglie c'è stato un'iniziativa, un percorso naturale di via, doveva solo fare ricorso e continuare, ma poi è stata sollecitata, vieni, facciamo ricorso che lo vincerai e tutto quanto, mai più si è fatta sentire, mai più si è fatta vedere. Cioè, per cui non è vero che è stata tolta da una lista, ma è stata depennata per... Ma non è possibile. Ma è certo che non è possibile. Ma è Parenzo che ci credeva, io non ci ho creduto manco per un secondo. Io ho detto verifichiamo se è vero. Ma verifichiamo, sì, i dati ci sono, ve li mando. Vabbè, ma che si può fare per cacciare via questi qua che occupano le case, sindaco? Che si può fare? Ma che quello che si può fare, intanto l'ATER ha già fatto il suo percorso e c'è il giudice. Il problema è lo strumento di cui usano i minori, e questo a me dispiace. Cioè, usano i bambini anche in questo caso, usano i bambini per fare i cazzi loro. Bravissimo, assolutamente. Ma è ora di finirla sta cosa qua. Allora, scusi, sindaco, ma è vero che è andata dai carabinieri a denunciarsi? Secondo me è un trucco quello, andare dai carabinieri a denunciarsi. Ma lo fanno di proposito, è una strategia questa. Ma dobbiamo finirla di fare queste stupidaggini qua. Ma questa qui, quindi, che fine fa? Cioè, che deve fare per averla a casa? Ma un lavoro, si procurasse i soldi per affittare una casa, come no, fanno? Ma lui dice che però in passato aveva diritto. 33 anni, i veneti si tirano sulle maniche. Ma questo non c'è dubbio, a me lo dice. Che c'entra? Io feci il mutuo per comprarmi la casa, perché a me non me lo sta dicendo. Ma sai quante io ho fatto il mutuo quando ho comprato la casa. Bravissimo, e non ho neanche finito di pagare. Parlare, però, dimmi. Bravo, però ti sei tirato dato da fare e te la sei procurato il lavoro. Lei dice che fa l'ambulante. Lei dice che fa l'ambulante, la signora. Sì, è vero, questo è vero, non possiamo dire tutti. E ha cinque figli. Non sono tutti suoi, ma comunque va bene, a prescindere da tutto questo. Che vuol dire non sono tutti suoi? Sono problemi suoi, perché non dico problemi suoi, perché probabilmente saranno figli di altri compagni. Ah, Dio, c'è anche figli di un altro matrimonio. Ragazzi, sì. c'è tutto di più. Però, a prescindere da questo, è rispettosa. La ragazza, basta che si dia da fare, non c'è un problema. Io l'impegno l'ho preso nei confronti dei minori. Sì, ma ecco, ho capito, ma bisogna mandare... Queste, non è e possibile... quei minori, dove devono andare quei minori? Assolutamente, lei deve ritornare da dove è partita. Ma dove... moglie, lei ha una roulotte, ha una carovana, va là. Dopo io mi prendo io l'impegno di trovare la soluzione. Ma la soluzione, uno se bravo. Non è, se, oh, ma se uno non è dentro sindaco, le graduatorie, non è che uno se le però può inventare. Però lui trova la soluzione, perché intanto, è un sindaco intelligente. Intanto mettiamo bravo. In graduatoria e dopo ci sono dei minori, cerchiamo anche di rispettare queste bravo. Cose qua, no? Questo è pragmatismo di governo. Bravo sindaco, vedi sì, che adesso c'è tutto. Perché sennò altrimenti cosa facciamo? La giungla è ora che finisca. Non bravo. Si può ma questo è quello che dico io. La giungla no, pure... però lui dice che se ne deve fare carico della situazione di minori. Cioè, non è che dice vaffanculo tutti quanti, no? Ma che è un sindaco bravo. Tu dici vaffanculo tutti. Io dico, se uno ha diritto, bene. Il sindaco ha detto, non so neanche di che partito sia, non mi interessa neanche, non voglio neanche saperlo. Ma ha detto una cosa intelligente che condivido. Se uno ha diritto, bene, non è che può passare avanti altre famiglie. Lo ha appena famiglie. Detto, ma per il fatto di avere cinque figli, ne avrà diritto. Appunto. Va bene, arrivederci sindaco. Arrivederci, grazie. Ciao. Bravo. Ormai è tutto degradato. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aruba Soluzioni Cloud per le imprese. Solo su www.cloud.it. La Zanzara. Io nei villaggi di Berlusconi ci metterei i romani che parcheggiano in doppia fila e anche quelli che non c'entrano nel cassonetto dell'immondizia. Ve lo meritate tutto, Bertolaso. E ritorna il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Guarda... Vengono in Italia con l'idea di fare criminalità perché noi non ne possiamo più. Giri per strada e ti guardano anche con uno sguardo di affronto. È vero. Basta, basta, mandiamoli via a calci nel culo, Sammy, per favore. Allora, ti guardano male fuori a calci nel culo. Nulla di nuovo, mi pare, fin qua. Aspetta, aspetta. Sam, io stanotte sono andato al lavoro e ho avuto un diverbio con uno straniero, tra l'altro trans. Basta, io mi sono rotto i coglioni. Cioè, un diverbio con uno straniero trans e si è rotto i coglioni. Pensa lui che ha avuto un diverbio con un padano. Pensa te, come si è sentito quello lì. E i bambini, chi li tocca per egoismo, come Vendola lì che non è se proprio gente abbietta, è proprio... un egoismo schifoso, perché quella è la cosa più brutta. Uno vuole comprare perché ha i soldi, deve avere il bambino. Una cosa mostruosa, perché cioè, gli animali non fanno queste cose, li fanno gli esseri umani di una certa tendenza. Senza dubbi né ripensamenti. Però in questo caso il padano è simile a che ne so, anche ad un Adinolfi, no? Sì, beh, purtroppo sì. Secondo me continuare a spingere con questi transessuali, la gente normale, alla fine si nausea e dopo veramente vai alla fine che li odi. Cosa me ne frega a me se Parenzo le piace prenderlo di dietro piuttosto che... ma vada, ma se lo faccio, ma chi se ne frega? A me non me ne frega niente. Alla fine uno si nausea, si stufa e quando li vede veramente le viene il vomito, che non dico quel senso d'odio, no, però avete rotto i coglioni. Ma che c'entra Parenzo che lo piglia dietro? Su questo ho confuso, perché forse parlava di te che hai messo in vendita la Zola, diciamo. Forse si è confuso della foga il simpatico padano. Va bene ragazzi, allora abbiamo però un grande ospite, caro Parenzo, perché è una persona che si chiama Alessia. Sì. È stata riconosciuta dal tribunale donna anche se in realtà non ha fatto ancora il cambio di sesso. Ah beh, fondamentale. Fondamentale, assolutamente. Sì, Alessia, sentenza storica. Com'è che si chiama di cognome? Bessia? Bessia? Ciao, sì. Ciao Alessia, ciao. Ciao cari. Come stai? Ecco signora, buonasera. Tutto bene, sono a casa. Sì, ecco. Quanti clienti oggi? più di tre. Ah, già fatto più di tre clienti? Sì, più di tre. Allora, ma due stamattina, anzi no, quattro. Quattro, incasso? Io prendo la media di 100 euro. La media di 100, dunque oggi siamo sui 400. Quindi, parliamo di imprese. Che mi dà anche qualche cosa in più. Dunque, parliamo di imprese, non lo dico per chi è all'ascolto. Certo, perché... parliamo comunque di imprese, imprese individuali. L'impresa individuale di Alessia. Certo. Questo momento di trasmissione non è consono con gli obiettivi che ci siamo dati, questo lo voglio confermare. Quindi è da scorporare. E si chiama Zanzara Extra, come si fa in genere nelle trasmissioni, no? C'è una parte che è scorporata, che non va in onda. Questa è quella. Allora, Alessia, con una media di 400 euro, tu quanto guadagni all'anno? Diciamo, poi fai poi il raccontiamo. 400... tutta la tua storia, cioè più o meno quanto guadagni facendo la prostituta, la escort, diciamo, no? Sì, non riesco a quantificare perché c'è chi mi dà anche più di quello che io chiedo, quindi ci sono anche gli extra, ci sono le trasferte, ci sono i tour, ci sono i tour dei weekend. Che tour? Che roba è? Mica il circo. Che tour è, scusa? Mica il teatro. I tour, cioè nel senso che io di base sono a Bari, sì, però giro, faccio anche altre città. Ah, quelle quindi, sono le trasferte. Rockstar, quindi sono le trasferte che io li chiamo gentilmente i tour. I tour, beh, questa è stupenda. Questa è transessuale, transgender barese con questo accento è meravigliosa. Alessia, io già ti adoro solamente ad ascoltarti. Grazie. Solamente ad ascoltarti, cara. Io, quando è che hai avuto questa grande soddisfazione della sentenza che ti dice io sono donna, pur avendo tu il pistolino, diciamo, no? Il pistolone, sì, insomma, sì, dipende dalla ancora... misura. Sì, ho ancora l'organo genitale maschile. Non hai ancora fatto Zac, non ti sei ancora tagliata il famoso uccello. No, vabbè, no, adesso non c'è bisogno di entrare nello specifico del questo racconto. Parte di trasmissione, ma... dello storytelling. Non c'è allora, voglio capire, Alessia, ma è chiaro che tu non lo fai perché altrimenti dove li guadagni i soldi? Diciamola tutta. Amica sì, mia, dai. Fino a quando non ci danno un lavoro. Non ci danno, chi te lo deve dare il lavoro? Noi siamo... quello che comunque usiamo un organo genitale come fonte di lavoro alla fine, per forza, ma questa è l'onestà, l'onestà di Alessia, l'onestà, e alla fine se ci dessero lavoro molte di noi non farebbero questo. Ma chi te lo deve dare il lavoro, amica mia? Chi ce lo deve dare? lo so benissimo. Chi te lo deve dare? Lo Stato, il lavoro, chi te lo deve nessuno. Appunto. Nemmeno il privato. Non te lo danno, dici? Non me lo danno, niente da fare. Quindi ho questo, niente. Senti una cosa, io non ho capito. Tu devi sapere, Parenzo, che non sai niente, che è laureata la signora. No, perché vai, non ho dubbi. È laureata. Benissimo. In che cosa? Sì. In scienze? In scienze sociali, in pratica sarei assistente sociale, ma non ho mai svolto la professione. Beh, te credo, perché lì guadagneresti poco, qui invece. Sì, ma io preferisco guadagnare anche meno, però essere più libera. In che senso? Vabbè, scusa. Più libera nel senso che lavorare 8 ore al giorno anziché, voglio dire, 20. Cioè tu comunque, cioè che senso, è meglio fare la prostituta, dici? No, preferirei lavorare 8 ore al giorno, sei l'orario di lavoro, piuttosto che lavorarne 20, nel senso essere sempre reperibile, cioè nel senso che questo lavoro purtroppo. Ma tu come lavori, col cellulare praticamente? Sì, tramite gli annunci su internet. Ma chi è, quali sono i tuoi clienti, cara Alessia? Sono tutti sposati? Persone bravissime, sposati la maggior parte, anche fidanzati, cioè per esempio la sera si abbraccia la categoria dei fidanzati o di single, durante il giorno le persone sposate. La maggior parte sono fidanzati e sposati, diciamolo tutto. Hai capito? Sì. Che si vogliono togliere, diciamo, lo sfizio. Beh sì, alcuni comunque si affezionano. Si affezionano. Io infatti ho un bellissimo rapporto con loro. Pure con i clienti. Vabbè. Sì, cioè molto. Fanno regali, che fanno? Fanno regali, ti regalano attenzioni, complimenti, ti chiamano per il buongiorno, ti mandano dei messaggi carini e tutta una serie di cose. Scusa, tu quando è che potrai ritirare questa famosa carta d'identità, che pur non avendo fatto il cambio di sesso sei ufficialmente una femmina, Alessia? Guarda, proprio oggi ho saputo dal mio avvocato che entro i 30 giorni dalla sentenza, quindi entro il 10 aprile dovrei andare a ritirare comunque il documento d'identità. Capito, Parenzo? L'Italia cambia, l'Italia che cambia. No, questo è meraviglioso. Una è donna pur avendo ancora l'uccello. Ma è così. Questo adesso quello che ha non ci interessa. Questo è la cosa. No, però non ci interessa. Pur non avendo fatto il cambio lei di si sesso. Si sente donna, si chiama Alessia. Sì, perché io vivo da donna. Da che età vivi da donna? Da sempre, mi sento donna, solo non sono pronta per l'intervento adesso. No, però certo. Giusto pure che venga riconosciuta donna. Quindi quanti anni hai, Alessia? Io ho più di 30 anni. Ma quanti? Più di 30 anni che vuol dire? Più di 30 anni potrebbe essere anche 55. No. Quanti ne hai? 33, 34? Quanti sì, ne hai? 33. 33, così diciamo una cosa a caso, 33. Così. Senti una cosa, ma quanti interventi hai fatti? Perché io qua ho letto oggi un'intervista sulla Gazzetta del Mezzogiorno, hai fatto 40.000 interventi, ti sei massacrata praticamente. Non è che in pratica ho fatto due mastoplastiche, cioè ovvero due volte il seno, due rinoplastiche, cioè il naso, ho fatto una blefaroplastica, una rinoplastica e un abbassamento della fronte. Ma che sei diventata una specie di mostro? No, e poi i vari filler. Filler, quindi, che so i filler? Bella, cioè alla i filler barese, sono i filler. Praticamente l'acido ialuronico, il botox. Ah, sono però cosa di originale è rimasto lì? No, dai. Ma pure là, pure sull'uccello hai fatto qualcosa? Ma chi ti frega? No, lì, grazie a Dio, sono dotata, quindi non ho avuto bisogno di interventi. Ed è anche un motivo del tuo successo, diciamo, diciamola tutta. Perché sì, io sono attiva. Sei attiva, diciamola, Parenzo. No, ma è tutto un racconto ininfluente rispetto al punto, alla notizia, sì, che da oggi lei, ecco, il punto, adesso di là di quel donna, che fa con quella roba là. È donna anche su carta, diciamo, anche su carta. Beh, questo mi sembra il punto, poi il resto, sai... Tu vorresti vorresti fare ancora la prostituta oppure... Cioè, io spero che con questo lavoro, con questo documento al femminile si possano aprire altre frontiere. E che frontiere si aprono, amica mia? Ma un lavoro normale, un'azienda. Ma che sai fare? La mia laurea. Che sai fare tu? Io so fare tutto. Cioè, sai fare tutto? Quello l'abbiamo capito. Vabbè, ho capito, ma non è che ti devi aspettare. Vai a lavorare, se non vuoi più fare la prostituta, se non vuoi più fare, come si dice in gergo, la zoccola... Ho detto con tutto il rispetto, perché per me è un lavoro come un altro, e uno va a fare un altro lavoro, evidentemente guadagni di più. Allora, arriviamo al punto. O all'anno tu in nero, quanto guadagni? non riesco a quantificarla. Che ne so, 200.000, 400.000, quanto? Non lo riesco a quantificare. Ma come non riesco? Guadagno parecchio, però parecchio. Io non lo faccio perché si guadagna parecchio. Quella no, perché, è una E perché più. Allora? Io lo faccio perché o faccio quello oppure non faccio niente, muoio di fame. Poi che da questo lavoro io guadagno molto, e qualcosa voglio dire di più. Di più. Però non lo faccio per questo motivo io. No, vabbè, lo fai per campare. Poi che comunque facendo questo lavoro si guadagna di più che un lavoro normale. Non è colpa mia. Senti, ma è vero che come ho letto qua l'altro giorno, è venuto uno a casa tua, si è travestito da donna e sì, non ha fatto niente? Chi? Io do la possibilità comunque a tutti di viversi al meglio i propri desideri. Quindi, sì, nel senso che se viene qualcuno come il tipo che insomma mi è venuto la settimana scorsa, ma è un tipo che viene ogni settimana. Lui. E che ha fatto? Che fa? E lui si è travestito a casa mia, poi siamo in macchina, siamo scesi dalla, insomma, per strada, però in macchina, gli ho fatto fare un giro e poi siamo risaliti a casa, avevamo avuto rapporti. Cioè lui si è veramente adesso. È venuto un cliente a casa sua, si è travestito da donna, è uscito a fare una passeggiata. Giusto, sì, con i tacchi, siete usciti. E allora solo le scarpe gli ho dato io, il resto ce l'aveva lui, l'ha portati dalla casa. Dalla casa. Che casa c'hai? Pure il cane c'hai? Vabbè, questo mi pare la cosa più normale che ha raccontato. C'hai la presenza del cane? Però... No, c'è un cane? No, io non ho animali. Ah no, sentivo prima una no, cosa. Ma sulla sedia. Ah, è la sedia che eccetera. Vabbè, ho capito. Cara mia, io sono contento per te che tu sei donna a prescindere dal cambiamento di sesso. Vorresti legalizzare la prostituzione? Cioè le tasse le vorresti pagare o no? No, perché io sinceramente sarebbe un ghettizzarsi. Io non ambisco a fare per sempre questo lavoro, quindi una legalizzazione di questa professione significherebbe un'ulteriore conferma a dire a tutti: tanto loro fanno quello, fai quello, sei sicuro. Ho capito, però è meglio. Non vuole farlo, vuole non fare vuole dell'altro. Ma lo voglio fare, se non lo voglio fare. Non lo fare. Perché, ma quanti clienti aspetti stasera? Sinceramente, poco fa è andato via uno. Ah, poco fa, pochi istanti fa. Si sente ancora l'olezzo, l'odore del sesso, diciamo, qui radiofonicamente. Si sente ancora circola. Io lo sento addosso. Vabbè, quello sì, amica mia, addosso, sì, per forza. Signora sì, mia, però questo l'ho capito, però si sente anche radiofonicamente. Trasferiscici un po' di odori, di quell'alcova meravigliosa in cui sei. Scusi, adesso io non esagererei. Qualcosa, te la sto trasferendo. No, è vero, vi stavi trasferendo anche in modo piuttosto con un certo trasporto, diciamo. Signora Alessia, adesso noi siamo qui per parlare della sua carta di identità, non per avere. Va bene, Alessia, io ti abbraccio, ti do un bacio. E purtroppo sei a Bari, altrimenti ti porterei a cena insieme a Parenzo per parlare un po' del tuo mestiere. Avevo... Perché sei attratto da tutto dalla vita reale. Ma che tu sei un vecchio porco, eccetera. Io ho altre tradizioni e mi occupo della vecchia azienda, diciamo, dell'azienda Alessia, quella storica, quella. Un bacio, ciao. Mauro Manto, signora. Ma che vuoi, Mauro? Sempre alla fine della trasmissione deve chiamare questo. Mauro, dimmi che c'è? Che hai fatto? Se Mauro che vuole rompere i coglioni. Non cominciare a sparare le cose tue sugli ebrei, che non ti stiamo ad ascoltare stasera, Mauro. No, intanto ti ho visto oggi alla 7. Ma non si sente niente, che sei? Si sente sempre benissimo, adesso oggi non si sente, come mai? Adesso si sente. Si sente, allora, dimmi. Allora, oggi ti ho visto alla 7, no? Sì. Perché quella che l'aveva con quel testa di cazzo di Rondolino. Sì, perché che ha fatto? Non è altro che Parenzo da vecchio. Diventa come quell'idiota di Rondolino, giornalista. Mi viene ma da perché? Ridere. Che ha fatto adesso Rondolino? Che ha fatto? Ma ascolta, ma non c'era mica Rondolino? Non farmi girare le palle, Che è successo? Che è un giornalista quel coglione. Vabbè, lì, ma adesso perché che c'entra Rondolino alle 20:49? Che ci frega di Rondolino alle 20:49? Quello è un coglione al cubo. Ma perché? Allora, che vuoi dire su Rondolino? Che cosa aveva da dire sto testa di cazzo di Mauro? Chi? Cosa aveva con me? Chi? Con prima, 5 minuti fa. Cazzo vuole? Vabbè. Che cazzo vuole? Io gli sparo in faccia. Io gli sputo in faccia. Ma chi? A Mauro? Perché? Che ha fatto l'altro Mauro? Ma che dice che io non ho il cervello? Ma cosa ho il cervello? Beh, questo è abbastanza confermato dalla storia, dice. Ma ti sputi in faccia, ti prendo legnate io. Ti prendo bastonate. Ma che cazzo è? Ma chi è? Bastonate, ma chi sei? Ma che cazzo è? Ma chi è? Cammello di una scorreggia. Io sono io. e gli altri non sono un cazzo, ricordatelo, Cruciani. Ce lo ricordiamo. Le palle ce le ho. Ce lo ricorderemo sempre, Mauro. Però nei prossimi giorni le palle ce le ho. Fatti vivo prima, amico mio. Fatti vivo prima, se no è troppo tardi. Io sono io e gli altri non sono un cazzo. Abbiamo capito. A domani, ciao. Calma, calma, c'è una sorpresa. Mi sembrate un po' mosci, facciamo un gioco. Allora, tutte le puttane da una parte e i froci dall'altra. Ma io non sono mica frocio. No, il gioco delle bugie lo facciamo dopo. Allora, io conto fino a 30 e nel frattempo voi vi scambiate le mutande. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.